le seul sur lequel je compte. Mais c'est ensemble qu'on peut être invincible. Ne plus devenir la cible des flics et autres racistes, couleurs d'affiches. Mettre fin à un cycle où on nous dit qu'il en est ainsi. Rallumer l'étincelle, les devancer, réaliser de belles choses à la De Vinci. Car ici ça taffe à l'intérim, se prive de tout loisir. Oh, non c'è segreto, sono le 16.000. E questo è Attica Blues. Come dice sempre nella mia volta, perché insomma noi di solito, sì, teoricamente sarebbe alle 4, però il quarto d'ora accademico non si può assolutamente togliere. Un saluto ai ragazzi del Valle, al Fedingo che ci ha preceduto, e perché no anche al compagno automatico che qua fa sempre il suo dovere. Bene, sì, la vostra radiolina è sintonizzata sugli 87.9 del Radio Onda Rossa. Liberi e senza padroni, ormai ne famo quasi 40. Oh, quasi 40, minchia. L'unica radio senza le 3P, senza padroni, senza partiti e senza pubblicità. E come dice il Fedingo che qua mi fa compagnia, come spesso accade da giovedì, e senza arrivati. Ebbene sì, vi abbiamo dato buca per un paio di giovedì, vabbè, famo tre, va? Ma siamo sempre qua, oggi una puntata interamente dedicata alla musica, mentre i prossimi due giovedì avremo ospiti vari e numerosi. Mm-hmm. E allora cominciamo subito con la selezione musicale. Think all camouflage. Neca. Na na na na na na na na. Oh na na na na na na. Say nobody move, nobody get hurt. You come by big car and you return by hearse. 'Cause we are murderers. Yeah, we are banal pagan and we are dangerous. Yeah, we no joke and no make fun and we are the champion sound. Yes, I we wear the crown and if I drum pan sound. Contest we raise it to the ground where you want proof. Nobody move, nobody get hurt. We have the vibe that make you fly, fly like a bird when don't disturb. Unless we put your face in the dirt, I and I work. And one day we will take over planet Earth. So why you try? You know how, but you don't know why. And that is why we will send you back to school for life. But my great lies on a rumor, brainwash propaganda. But we don't care about the words out there. My brother go and band to sound in the atmosphere. My sister man all a love, man all a dance, man all a share. And Mother Africa spirit today in idea. I say yes, the spirit today in. Feel the spirit. I say nobody move, nobody get hurt. You come by big car and you return by hearse. How we are murderers. We are gonna pick and now we are dangerous. How we no joke and don't make fun and we are the champions sound. Yes, how we hear the crown and if I drop and sound. But let me chase it out that down. I say oh na na na na na na na na. Car and you return by hearse. How we are murderers. Yeah, we are gonna have big and we are dangerous. But we no joke and no make fun and we are the champion sound. Yes, how we wear the crown and if I drop and sound. Musical feeling. Neca spacca. Nobody move, nobody get hurt. You come by big car and you return by her. So we are murderers. Now we are gonna have big and we are dangerous. Now we no joke and no make fun and we are the champions. Beh, che dire, non posso resistere, ne metto subito un'altra di Neca. Lucifer, no doubt. And separate them from the good, 'cause the day of harvest is near. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Jah shall clean out the bad weeds, yeah. Ah, whoa. Beh, dai, la fermo, sì, la fermo, la faccio ripartire da capo. Vi ricordo che allo 06 49 17 50 potete comunicarci il vostro punto d'ascolto o semplicemente fare un trillino per rimettere la punta e da capo, come sto facendo adesso, appunto. Quanto sangue innocente. And separate them from the good, 'cause the day of harvest is near. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Jah shall clean out the bad weeds, yeah. And separate them from the good, 'cause the day of harvest is near. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Woe be unto those that say they have Israel and they are not. Woe be unto those that say they're Jews and they are not. 'Cause they shall be cast away like the chaff that the wind driven away. I say, oh yeah, oh well, Jah shall clean out the bad weeds, yeah, and separate them from the good, cause the day of harvest. Certo che la caratteristica di questa musica è imbattere e levare chiunque la faccia poi alla fine. Jah shall clean out the bad weeds, yes. È quella di toccare temi così profondi, così universali, così giganteschi, sembrerebbe quasi. Con una semplicità disarmante. Separate them from the good, cause the day of harvest is near. Whoa, whoa, whoa, whoa. Oh, oh. Jah shall clean out the bad weeds, yeah. And separate them from the good, cause the day of harvest is near. Whoa, whoa, whoa, whoa. Whoa, well. Whoa, whoa. Vabbè, mo sono entrato nel loop, cercherò di uscirne un'altra necca. Africans. Yo, yo, yo. Onda rossa, sin. Love from pain, no, la devo rifermare pure questa, la devo rifermare per forza. Necca Africans. Occhio al testo, sin. Wake up, Africa. penalty. Why do we want to remain where we start taking? And how long do you want to stop yourself from thinking? We should learn from experience that what we are here for is existence. But now it is time to use the same agent to suppress our own brother. It's so comfortable to say racism is the cause, not the cause. This time it sounds the same body chasing and biting us. Open your eyes. Stand up and arise. Blow, blow, blow, blow. You got to wake up. Wake up, world. Wake up, you got to. Wake up, Africa. Wake up. Beh, visto che se continuavo così alla fine facevo tutta la trasmissione su NECA, se ne sono dovuto uscire. Come uscirne se non andare su quella piccola isoletta che tanti talenti ha sfornato e la cui musica almeno a me particolarmente mi appassiona, anche quando è fatta veramente come una volta, ma una volta e non vent'anni fa, tipo coi tamburi, quello che viene chiamato il Naya Bingi, che comunque è un modo emozionante anche di vivere la musica a chi gli è capitato, ma insomma io ti voglio dire anche a Villa con tutti quei bonghetti, l'emozione che c'hai, i tamburi che suonano, cosa mai buio, le stelle, vabbè, insomma la Giamaica ne ha sfornate tanto e da là questa musica viene. Questa è una rivisitazione ovviamente più moderna, la vocina è quella di Junior Marvin, I Know Sunshine. Oh, ain't no sunshine when she's gone, only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wondering this time where she's gone, wondering if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I know. Ain't gonna leave a young thing alone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, anytime she goes away. Anytime she goes away, yeah, yeah. I know. E va bene, rimaniamo sempre nell'isoletta. Una registrazione che, anche se ovviamente suona molto più moderna, è di una decina abbondante di anni prima. Lui è Charlie Chaplin, Cry Blood. Oh, blessed are the meek, they shall inherit the earth. Awo. Blessed are they that mourn, cause they shall become poor. Yes, yeah. Then, before one of fire and I work shall pass. Are you mean? Zion and earth shall pass away. Repeat it. I can't tell your work is how you get here. God Almighty. Jack come for save, yet still in with betrayal. But cry blood, motherless children cry blood. For bad blood, all Ethiopians bad blood. Cry blood, motherless children cry blood. Say bad blood, all Ethiopians bad blood. Give them do. Them use and abuse, confuse, then reject. Cut off with one another neck. Repeat it. Through with complexion, we no get no respect. Dread. And our education and human rights, they reject. But cry blood, motherless children cry blood. Say bad blood, all Ethiopians bad blood. As a Rasta man, I and I no be swear. Although what kind of man I would have been, if I'm not allowed to talk about what I see. But then again, the Bible says, let ye be ye and nay be nay. A Jaja never build a world in a one day. Jaja build everything in a different way. He make human being, we have children and he make foliar. So cry blood, motherless children cry blood. Fuori da quella crew che era il King Surgar Hi-Fi. Daddy Yuroi se la controllava. E ai piatti e ai microfoni una serie di ragazzetti tipo Brigadier Jerry, Charlie Chaplin, Josie Wales. I'm asking you to help me tonight, Kumbaya. I'm asking you to help me, Jah, Kumbaya. Vi sto parlando di una trentina d'anni fa, forse pure più. Erano gli anni Ottanta in Giamaica, la musica cambiava un po' nei suoi contenuti, più digitali, più anche facili da realizzare, più moderni, ma certo non nella sua sostanza. Un modo nuovo anche di cantare, differente. this. I can remember when I was a little boy, I've nothing to eat. And Christmas Eve, not even a pair of shoes on my feet. And then come the worst time, when I and I never have any time. And we have to play outside, me and my little sister, when you die. Hungry days, everybody have to meet hungry days. Hungry days. Sometimes your life hungry days. Perché fino a quel momento il reggae comunque era rappresentato così, da, anzi prima dai trio vocali, no? gli Eptones, i 2000 trio vocali Silverstones che ci sono stati, e poi comunque i cantanti, proprio i singer che cantavano, che avevano questo stile, non so come dirlo in italiano, cotulato. Beh, uno di questi era John Holt, questo appunto è Jam in the Street. Tutto suonato, sì. People going here, people going there. People going out, people coming in. People talking this, people talking that. People talking about the everyday is chat. It's a jam right out there in the street. Nothing to buy, nowhere to go, or nothing to eat. It's a jam right out there in the street. Look at those people over there, waiting on the bus, waiting on the train, trying to get a home out of the rain, trying to get to work so they'll get their pay. It's a jam right out there in the street. Nothing to buy, nowhere to go, or nothing to eat. It's a jam right out there in the street. People going here, people going there. People going out, people coming in. People talking this, people talking that. People talking about the everyday is chat. It's a jam right out there in the street. Nothing to buy, nowhere to go, or nothing to eat. It's a jam right out there in the street. People going on business, people going on pleasure. People going on their own leisure. People going there, people going here. People talking this, people talking that. It's a jam right out there in the street. Nothing to buy, nowhere to go, or nothing to eat. It's a jam right out there in the street. Che poi sempre verso la fine degli anni 70 c'era un altro fenomeno che esplodeva in Giamaica, un po' in tutto il mondo, da un'altra cricchetta che veniva da pure là dalla storia in qualche modo, Lee Perry, Bob Marley, Peter Tosh, i Wailers, l'Inghilterra, l'Island. Bill Ipnotica la linea di bus. Vabbè, ormai sono finito in Giamaica, vediamo se riesco a fare un piccolo excursus così da così che pare, insomma, che la trasmissione me l'ero tutta preparata e studiata. Dennis Emmanuel Brown. West Indies. Be no Jedi. survive to end up in no funeral. I don't wanna be no general to end up in a funeral. Che poi alla fine degli anni 70 e questo pezzo nello specifico appartengono al periodo dei disco mix, che erano praticamente dei 33 giri, come 33 giri giravano a 45 giri, avevano da una parte il cantato, quindi la canzone. Il dub. E dall'altra parte c'era il DJ, come in questo caso Ranking Joe. Something special. He say me higher than the general. Run, run. Can't stop youth man again. No. Can't stop youth man again. No. Can't stop youth man again. No. Can't stop youth man again. No. To perish. Man say, love is all I bring. You can't deny you'll end up Diciamo comunque che in un panorama così composto verso la metà, alla fine degli anni 70, di vari modi differenti anche di esprimere nei testi quello che succedeva in Giamaica, la musica è sempre stata un veicolo di informazioni, non voglio dire come il giornale, ma quasi, insomma, la musica si sente sugli autobus in giro, e da sempre, o quantomeno da svariati anni che è così. Comunque ci stava un artista, un personaggio nello specifico, che si è contraddistinto per l'impegno sociale e anche proprio umanitario a livelli sempre più grandi, e che ha rappresentato un po', diciamo, la parte politicizzata anche in qualche modo della musica giamaicana, nonostante la sua comunque attaccamento alle radici. Sto parlando di Peter Tosh, regà, Fight Apartheid. Peter McIntosh, un tema comunque sentito in Giamaica e in generale nelle Americhe, quantomeno dagli afroamericani, appunto, quello del ricordo della schiavitù, Barney Spear. Slavery Days. Grande Barney Spear. Vabbè, ci sono canzoni come questa che ovviamente in Giamaica hanno portato un momento di riflessione, come anche molte altre di quel periodo, di questi vari artisti che ci stiamo ascoltando. Ce ne sono altre che sono invece riuscite comunque già allora a varcare l'oceano e arrivare anche a un pubblico differente, arrivare qua in Europa, arrivare in Inghilterra, come ad esempio questa di Max Romeo. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send

Comunque diciamo che i messaggi in Giamaica, i messaggi positivi venivano anche veicolati attraverso canzoni molto più semplici, che con immagini forti che ti riportano immagini, anche perché no, semplici. Dennis Brown, Sitting on the Dock of the Bay. Aliguai, ma certo che la rimetto da capo, pure perché sono le 17.00. Come faccio a non rimetterla da capo? Sembra che sta andando malissimo, che non riesco a fare niente, la mia Giamaica è lontana. Mi seguo on the dock of the bay e riposo le mie ossa stanche. Guardando la città laggiù all'orizzonte. Vabbè, visto che ero riuscito a inizio trasmissione a uscire da NECA con una versione di Junior Marvin di Ain't No Sunshine, chiuderò questa trasmissione di Attica Blues con un paio di filastrocche d'amore tirate fuori sempre dall'isoletta di Giamaica. Questa è Everything I Own. Ken Boot. Ispiratissimo, Sin. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me. Dice, m'hai dato la vita, set me free. Rendendomi libero. Set me free. free. The finest cheers I ever knew is all the years I have with you. And I would give anything I own, give up my life, my heart, my own. Vabbè, certo che la rimetto da capo, sì, che imbutto, un chun proprio. Mi pare uscì per Trojan Records. You sheltered me from harm, kept me warm. Gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew is all the years I have with you. And I would give anything I own, my own, and I would give anything I own just to have you back again. Is there someone you know that won't let you go and take any? To talk to you words again. Visto che questo excursus piccolo piccolo nella musica giamaicana è cominciata da Ain't No Sunshine, alla fine finirà con Ain't No Sunshine, sempre di Ken Booth. Oh, è tanto che non lo dico a te, ma non vi preoccupate perché adesso comincia la schigna del sol. Ma perché gna? Ma perché gna? Perché sono gna. E invece schigna. Soul o soul? Allora, soul come anima e schina che vuol dire angolo, ma senza gna, pensa, semplice all'italiano, proprio le schina del sol. Va bene, va bene, cercherò di gna, perché devi gna a Palermo, te lo dico io. Ken Booth, ultima tune. Ci sentiamo giovedì prossimo con una band che verrà qua a trovarci. Ain't no sunshine when she's gone. not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, 'cause she's always gone too long. Anytime she goes away, wondering this time where she's gone. I know, I know. Ok, non avevo capito che era la sua ultima, perché siamo così amici tra di noi che neanche pensiamo addirittura di leggerci il pensiero. No, adesso scherzi a parte, diciamo che io volevo subito fulminarti con un pezzo che ci stava talmente bene che potevamo non mettere la sigla e fare come, no? Un mix, sì, capito, queste cose. Allora, intanto io chiacchiero, vediamo se mentre chiacchiero riesco pure. No. Sì, invece sì. Dai, di qualcosa anche tu, così mi aiuti. Sono curioso perché ogni tanto mi hai fatto ascoltare delle cose incredibili che erano remixate proprio con la musica giamaicana, quindi... Bravo, ci stiamo avvicinando alla, diciamo, come dire, alla questione. Chi era Mad Professor? Chi era... Bravo, bravo, bravo. Quello era Mad Professor che, diciamo, giustamente... Non si deve alzare presto la mattina per andare in fabbrica e io lo invidio molto. Lui ha scoperto, cioè, da bambino, insomma, penso abbia iniziato veramente con... Beh, lo invidio pure un po', insomma, dovesse alzare per fare il lavoro che ti piace, è un po' diverso che alzarsi, no, dico, poi ci credo che si sveglia e sveglia, no, vabbè. Assolutamente adesso no. Comunque, senza voler togliere niente a Mad Professor, che comunque è indubbiamente una mente musicale abbastanza sconfinata, nel senso che penso che lui... abbia portato poi la sua identità musicale, che nient'altro è quella che elencavi, quindi è giamaicano? È giamaicano, quindi è un inglese giamaicano, che mi sembra ormai che si possa definire una definizione, è un giamaicano inglese, forse prima di essere inglese è giamaicano, vabbè, insomma, si diverte giustamente a contaminare, a fare della musica quello che più gli piace. E la cosa molto bella, secondo me, è che non si ferma alla Giamaica, che non si ferma al Caribe, ma che invece proprio sconfina, perché io ho sentito cose in cui c'era lo zampino di Mad Professor un po' ovunque. Ma invece no. Dopo tutto sto pippardone, Mad Professor non c'entra. Ti volevo far sentire questo mitico gruppo che ogni tanto passo, che ha fatto questo disco che si chiama Hip Hop and Cumbia, e poi dove appunto lui fa in cumbia assolutamente strumentale, rifà pezzi hip hop. Come fa? Scaricatelo e scopri un altro mondo, nel senso che se può, solo ritmo, niente voci, e fa delle cose pazzesche, ma tipo che ti fa la cover di Missy Elliott, capito? Non è che dici, sai, quel rap metodico, no, proprio E poi hanno fatto quest'altro disco che penso che si chiami Lo Smithy con del ritmo, in cui hanno fatto una serie di cover che qua ormai fanno impazzire il pubblico delle Schiena del Sole. Addirittura abbiamo sentito Michael Jackson, i Queen e mo te faccio piagne. Quanto t'ho sorpreso! reggaettare l'ascolto, del resto la malattia è il reggae da questa radio. E devo dire che se perdete un po' di tempo, questo disco lo trovate in rete molto facilmente, si chiamano appunto I Mitici del Ritmo, Los Míticos del Ritmo, oppure insomma dal tubo trovate sicuramente questo Satta Massa Cumbia. Pure dubbonata qua la cumbia con un po' di appunto riverberi da beschi. Che dire? Che solo questa radio può.